I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Oggi vorremmo parlare di un clima che diventa sempre più pesante e accusatorio verso l'intera industria alimentare italiana quando ha a che fare con il mondo della carne. Viene descritta come una via di mezzo tra un'industria fatta di sanguinari carnefici e un settore che non sa garantire la qualità e genuinità del prodotto. Per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole e la scelta alimentare è una scelta che viene dettata spesso da convinzioni ideologiche, ma dovrebbe in primo luogo seguire le indicazioni del mondo medico che invita in età adulta ad essere moderati nel consumo di carne. Ma al di là di questi due aspetti, quello ideologico, vegano, vegetariano e quello di carattere più medico, vorremmo introdurne un terzo. È infatti troppo prosaico ricordare che l'industria della carne italiana e anche i singoli produttori locali rappresentano uno dei punti di forza del Made in Italy alimentare, che è riconosciuto a livello mondiale come un prodotto di qualità. È troppo prosaico ricordare che l'industria alimentare, quindi anche quella della carne, ormai lavora con processi di attenzione sulla sicurezza degli alimenti che produce, ed in particolar modo quella italiana, che non è mai stata coinvolta in uno scandalo. E infine è troppo prosaico ricordare che il settore delle carni vale in Italia 30 miliardi di euro e sullo sfondo resta sempre una domanda inevasa dai teorici: che cosa ne facciamo dei 250.000 addetti e delle loro famiglie del settore carne? Li mandiamo a pascolare? I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. 1.600 miliardi di dollari è un fiume enorme di denaro, è l'importo sottratto al fisco che 50 multinazionali custodiscono nelle loro filiali in paesi offshore, paradisi fiscali. Lo dice il report di Oxfam, confederazione delle organizzazioni che lottano contro la povertà e che misura la ricchezza nascosta dalle grandi società americane. Si va da Apple a Coca-Cola, da JP Morgan a Walmart. Il rapporto segnala che l'abitudine di adottare tecniche di elusione fiscale non conosce crisi. Il valore totale del capitale accumulato all'estero è cresciuto di 200 miliardi di dollari nell'ultimo anno, arrivando appunto a quota 1.600 miliardi di dollari, più del PIL di un paese come la Spagna, per avere un ordine di grandezza. La denuncia di Oxfam serve anche a sottolineare il fatto che trasferire soldi nei paradisi fiscali per eludere le tasse rimane una prassi diffusa e spesso anche legale. In questo modo ogni anno vengono evase imposte per decine e decine di miliardi di dollari. Naturalmente il tema riguarda anche i paesi in cui queste aziende operano, Italia compresa. Le aziende infatti cercano di trasferire i profitti in territori, diciamo, più indulgenti sotto il profilo fiscale. Il nostro fisco è impegnato in una complicata attività per riportare in Italia tasse che finora venivano evase, e qualche risultato in effetti è anche stato raggiunto. Apple ha già versato al fisco italiano 318 milioni di euro e nel mirino ci sono anche altri colossi come ad esempio Google e Amazon. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.